Radio Azione, Radio Azione, controprovazione, verdure, promozione, musica, Radio Azione, frequenze e azioni, Radio Azione, Radio Azione, Radio Azione, Radio Azione, Radio Azione, controprovazione, verdure, promozione, musica, Radio Azione, frequenze e azioni, Radio Azione, Radio Azione, Radio Azione. Only the good things that come into your mind. Mind. Mind. Mind. Mind. Mind. I don't think you understand. I didn't come here to rescue a battle from you. I came here to rescue you from him. Body bags. war you can't win? Are you telling me that 200 men against your boy is a no-win situation for us? You send that money, don't forget one thing. What? A good supply of body bags. I telefoni della Torre M squillano in continuazione, ma nessuno si azzarda a rispondere ad una sola delle chiamate perché si pensa che siano cittadini incazzati dopo la diretta TV. Navig è oramai in preda ad una vera e propria crisi di nervi. Ha sfasciato quasi interamente il suo ufficio davanti ai visi preoccupati dei suoi uomini topo. Poi all'improvviso butta tutti fuori tranne il suo bacio destro Tayon, che cerca di calmarlo dicendogli continuamente di non perdere la calma, altrimenti sarebbe solo peggio, e che non è il solo ad essere nei guai ora, ma tutte le autorità governative e religiose della nazione. Proprio i governanti nazionali dovrebbero escogitare una soluzione per evitare che l'intera nazione si sollevi in un'insurrezione, una sorta di regalo, come si fa con i bambini, in modo da tenerli buoni. L'acido FB da solo non sarebbe bastato a tenere la popolazione a casa, ci vorrebbe qualcosa ancora di più attraente che dia una sensazione quasi immediata. Questo se si vuole mantenere potere sui cittadini e di conseguenza la loro sottomissione. L'altra soluzione, nel caso di rivolta, è di eliminare fisicamente tutti quelli che hanno a che fare anche minimamente con la politica non istituzionale, come accade in ogni dittatura. Tayon è l'unico uomo che, in tutto quel delirio, Navig riesce ad ascoltare anche molto attentamente. Il generale Topo, con una rasoiata fatta con la mano, butta tutto giù dalla scrivania. Poi prende la sua poltrona e, come tutto di un tratto si fosse calmato, si siede invitando Tayon con un gesto molto elegante della mano a sedere di fronte a lui. Dalla tasca tira fuori un sacchetto con la cocaina e lo riversa sulla scrivania, e mentre ascolta il suo uomo di fiducia, che è un fiume di idee che gli strappano addirittura qualche sorriso, dal cassetto estrae un piccolo contenitore portagioielli in cui c'è una lametta d'oro con le sue iniziali incise. Quell'oggetto era stato per anni, durante la sua carriera di inquisitore, la causa delle cicatrici sui volti di molti sequestrati, e lui ora la conserva gelosamente e molto fieramente lo mostrava a chiunque ogni volta che capitasse l'occasione, anche se ora fungeva solo per sminuzzare la coca e ridurla in righe da sniffare. Appena preparato il tutto, Navig si alza e si dirige verso il suo armadietto, da dove tira fuori una bottiglia di whisky e due bicchieri di puro cristallo. Il generale versa da bere, mentre Tayon è in una vera e propria trance di idee e di parole. Si risiede e, sporgendosi in avanti, poggiando mezza pancia enorme e molle sulla scrivania, allunga il braccio e mette una mano molto delicatamente sulla spalla del suo uomo. Poi, con una voce molto pacata, si rivolge all'uomo: Tayon, ci pensiamo dopo quando arrivano le altre autorità sul che fare. Poi, mostrandogli le righe di coca e il bicchiere di whisky, con molta galanteria, accomodati pure. Intanto le fiamme dell'esplosione, che erano arrivate fino alle porte della metropoli, vengono finalmente quasi del tutto spente. Anche l'enorme incendio nell'area nord della Nazaro 13 viene finalmente quasi del tutto spento, ma è praticamente impossibile entrarvi perché c'è il rischio di rimanere avvelenati dal fumo della reazione chimica provocata dall'incendio delle raffinerie, che è pericolosa quando lo possono essere le radiazioni nucleari. La situazione è molto preoccupante, perché l'enorme nuvolone velenoso, con l'aiuto del vento, si sta muovendo e nel giro di poche ore potrebbe invadere il cielo non solo della Nazaro 13, ma anche di tutti i paesini limitrofi. Il colore viola e quasi fluorescente della nube tossica ridipinge i palazzi bianchi, i quali come un reverbero restituiscono una luce diffusa in tutta la metropoli, che prende sempre di più l'aspetto di una di quelle città post-atomiche che vengono ricreate nei videogames in 3D di ultima generazione. Dall'alto del Vesuvio, i refrattari, guardando quello strano nuvolone, capiscono subito che le cose non si mettono affatto bene. Sono indecisi su cosa fare. Le possibilità che la nube possa arrivare, anche se molto lentamente, fin da loro, non li rende tranquilli. Come se non bastassero, solamente i Tarspok a dargli la caccia. Arni, uno dei raffrattari più determinati, propone di andare a vedere da vicino cosa accade nella Nazero 13 ed approfittare della gita facendo qualche razzia in qualche supermercato per procurarsi del cibo. Arni, insieme a Mark e Aki, dopo neanche 10 minuti sono a bordo del camper e si stanno dirigendo verso la metropoli, non prima di lasciare lo stesso mezzo qualche chilometro prima e rubare un'altra auto, perché sicuramente c'è la denuncia del furto dello stesso camper da parte dei legittimi proprietari. Gli ospedali della metropoli intanto iniziano ad affollarsi di persone che hanno respirato i fumi della nube tossica. Non c'è spazio per tutti i pazienti e si cerca di attrezzare qualsiasi spazio con brande e barelle. I corridoi diventano enormi stanzoni con letti su entrambi i lati per i pazienti messi peggio. Chi sta un pochino meglio deve accontentarsi di sedersi o sdraiare sulle scale che portano da un piano all'altro della struttura. Le sensazioni della catastrofe si stanno materializzando man mano con il passare delle ore. Sembra che tutto ad un tratto sia scoppiato dalla quarta guerra mondiale, ma è tutto molto silenziosamente, perché non ci sono truppe che cercano di invadere un territorio, ma una nube che lo sovrasta. Non c'è un bombardamento aereo, ma una fitta nevicata di cenere radioattive. Radiazione diretta d'azione lunedì 17 marzo, ore 17, tutti 17. Però c'è il sole, non ci sono le nuvole, fa caldo. Sembra tutto andare bene, a parte 17. E beh, da napoletani un po' di scaramanzia ce l'abbiamo sempre. Allora, diretta d'azione come ogni lunedì, che riguarderà controinformazione, ma soprattutto la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. Siamo alle ultime due dirette per quanto riguarda Tortuga. Per la prossima diretta l'abbiamo bello e finito, e poi verrà annunciato il prossimo libro. Noi ci abbiamo qualche idea, però se volete darci qualche consiglio è ben accetto. Ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione@autistici.org per la mail, per spedire qualsiasi tipo di comunicato, testo, giornali online, news, critiche, complimenti secondo sempre poco, ovviamente le critiche le potete mandare, oppure, come abbiamo appena detto, qualche consiglio per i libri da leggere sul lunedì di radiazione, con la lettura che non c'entra un cazzo con i testi anarchici, ma bene o male che possa avere dei temi inerenti e un po' più affini con l'affinità di sì. Il sito invece è radiazione.org, dove potete andarvi a leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente, dove potete riascoltare le vecchie dirette d'azione attraverso la categoria ascolta le dirette d'azione, ci sono tutti i podcast da un anno e mezzo a questa parte, dove potete ascoltare la diretta d'azione il lunedì e venerdì dalle 17 in poi attraverso il lettore flash che trovate sulla sidebar, oppure cliccando sul banner che trovate ogni giorno della diretta, che preannuncia la diretta del giorno stesso, dove poi c'è anche una pagina download per poter scaricare un po' di materiale, cd, opuscoli, libri, manifesti. La radio trasmette su anarchia.net, questo già da un paio di mesi, ci troviamo benissimo, fortunatamente abbiamo risolto parecchie noie che avevamo con l'altro server. Speriamo di aver inguagliato la vita parecchio a chi ci dava queste noie anche precedentemente. Infatti. Vabbè, questo per quanto riguarda gli indirizzi utili per radiazione. Ora ci ascoltiamo un brano di Banditos, Scary Rainbow, e poi si torna qui e si parte subito con la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. Thank you. Marzo 2014, ripetiamo, siamo scaramantici, il 17 porta male agli altri, non a noi. Ritorniamo nei mari dei Caraibi, questa volta ritorniamo dopo che veramente i fratelli della filibusta, i fratelli della costa hanno conquistato una delle capitali delle colonie spagnole, Campeche. Sono arrivati dentro la città con una mirabile strategia tenaglia di cui sono arrivati da terra e non da mare, hanno sorpreso gli spagnoli, si sono impossessati di quasi tutta la città e adesso vediamo che frutti porta questa dubbia vittoria. L'alloggio del cavaliere de Grammont non era il Fuerte del Bonete o Fortezza Vecchia tenuto da Lorenzillo, bensì il Fuerte de San Benito, costruito sul mare non lontano dal Cerro della Eminencia e dal baluardo di Santa Cruz. Lo componevano due terrapini, di cui quello più basso era dotato di 16 cannoni puntati su quattro fronti, campagna, mare, città e spiagge. Era un mistero perché gli spagnoli non avessero orchestrato da lì la loro difesa, invece di asserragliarsi nel più antiquato dei fortilizi. Forse temevano che San Benito fosse vulnerabile alle artiglierie della flotta pirata, oppure che la sua posizione isolata rendesse facile bloccare gli approvvigionamenti. Rogerio non aveva molte speranze quando imboccò il passaggio tortuoso che conduceva all'ingresso principale del fortilizio, tuttavia valeva la pena tentare. Si incamminò con disinvoltura. Sotto l'arco del portone due bucanieri appoggiati ai loro grandi fucili stavano conversando. Lo guardarono con aria interrogativa. «Sono il nostro amo delle Ardì», disse Rogerio. «Ho un messaggio del mio capitano per la sua schiava, quella che è sbarcata con lui». Uno dei bucanieri parlò nel francese aspro, nasale, dalle vocali troppo aperte e zeppo di espressioni antiquate tipico dei suoi confratelli. «Abbiamo ordine di non far passare nessuno». Probabilmente l'uomo non scannava un cinghiale da molti mesi, eppure i suoi abiti e la sua barba incolta continuavano a puzzare di sangue rappreso. «E a noi cosa vuoi dire alla Pitun? E glielo riferiremo». Intervenne l'altro, sporco e selvaggio quanto il compagno. «Ma questo lo riconosco, è il gesuita, era sul Neptune, adesso è con De Grammont, penso che possiamo fidarci». Il primo bucaniere si grattò il cranio sotto il berretto conico, da come vestivano parevano entrambi insensibili al caldo. Ah, uè, purché il colloquio sia di pochi minuti, e indicò a Rogerio oltre il portone un vasto cortile assolato con un pozzo al centro. La Pitoune non fa che passeggiare come un'anima in pena, la trovi là, nel forte non c'è che lei, sbrigati però. Rogerio, che non aveva assolutamente idea di cosa significasse Pitoune, non si fece ripetere l'invito. Si trovò in un cortile pentagonale con molte porte. Una scala conduceva i bastioni alle torrette di guardia. Una donna era lassù appoggiata ad un merlo basso e possente, fissava il mare, forse per godere della brezza che ne proveniva. Vestiva un abito da passeggio leggero ed elegante, proveniente di sicuro da una delle case saccheggiate in città. In luogo del cappello aveva una coroncina d'argento e una piccola collana d'ambra le scendeva sul petto. Si volse appena quando Rogerio iniziò a salire gli scalini. Sembrò sorpresa, ma più che altro per la manica vuota della camicia di lui. Il gesuita la fissò con occhi grandi e indagatori, socchiuse le labbra senza tuttavia fiatare. Ansimante per la salita troppo rapida e per l'emozione, Rogerio capì dove si dirigeva lo sguardo di lei. Fece un inchino e le disse sorridendo: «Hai già visto sul molo cosa mi è successo? Adesso non puoi capire, capirai in seguito. Sappi solo che il sacrificio del mio braccio è la premessa della nostra felicità imminente». Lei non sorrise, ma nemmeno lo guardò con avversione. Incrociò le braccia, i polsi erano tutti ingioiellati. Sedette nella scalanatura fra i due merli come se attendesse qualcosa, le pupille nere erano vive e mobili, eppure sembravano scrutare un mondo separato da distanze incommensurabili. Il portoghese ritenne giusto di tornare all'attacco e indicò se stesso. «Io, Rogerio», disse, puntò l'indice verso la donna, «e tu?» Questa volta la schiava mormorò qualcosa, ma si trattò di parole incomprensibili e praticamente impronunciabili, appartenenti a chissà quale dialetto africano. Era però già un primo passo in qualche modo incoraggiante. «Puoi ripetere, per favore?» chiese Rogerio, che sentiva montare in sé l'entusiasmo. Per tutta risposta la schiava girò il volto e con un moto grazioso e tornò a fissare la schiuma delle onde che si frangevano contro le spiagge e i contrafforti di campeggi. Dava l'impressione di adorare il venticello che le scompigliava i capelli corvini. Era il momento di un gesto decisivo. Rogerio, che avvertì la necessità, ma che per attuarlo dovette superare non poche remore, nelle sue fantasie la donna aveva perso i connotati carnali. Non osava nemmeno guardarle il seno, l'unica parte del corpo di lei assieme alle braccia parzialmente scoperta grazie alla scollatura profonda e alle trasparenze della camicetta. Temeva di insozzare solo con la vista un possibile amore perfetto e spirituale. Eppure bisognava fare qualcosa di concreto. Con la sola mano che gli rimaneva le afferrò il mento, lo girò e fu ancora una volta inebriato da quel viso perfetto malgrado la tinta dell'epidermide. Premette le labbra su quelle di lei, le trovò tumide e piene di sapori. Tuttavia, benché arrendevoli, rimasero serrate, non si schiusero. Il bacio passionale che Rogerio meditava rimase un bacetto fra bambini. Insistette un poco e poi si ritrasse. Dal cortile uno dei bucanieri gridò: «Ehi, gesuita, hai finito con la Pitoune? Scendi, che il tempo è scaduto, non possiamo contravvenire alle consegne ancora a lungo». Rogerio allora si staccò dalla schiava, che subito si asciugò le labbra con la manica della camicetta. Il portoghese non fece caso al gesto. «Tornerò presto, amore mio», le promise. In fondo alle scale trovò il bucaniere che l'aveva fatto entrare, più divertito che irritato. «Un messaggio un po' troppo lungo, eh? Ti piace la negretta, ne è vero, gesuita?» Rogerio cercò di difendersi. Ciò che avevo da riferirle era lungo, non vorrei che si pensasse, ma fu interrotto da una risata. «Non ti preoccupare, tutti i fratelli della costa sanno della tua passione per la Pitoune». E il bucaniere, più puzzolente che mai, indicò il moncherino del portoghese. «Ah, buona mossa questa! Se sarai abile, la negra ti spetterà di diritto. Ma io non lascia perdere, esci di qui o tra un minuto ti spareremo addosso». A Rogerio non restò che tornare nella città quasi deserta, silenziosa sotto la calura. Si udiva il ronzio di sciami di mosche e il grattare delle unghie delle iguane sui tetti. Le abitazioni in pietra, lungo le vie squadrate con regolarità certosina, avevano tutte quante le porte sfondate. Sulle soglie o nei pressi giacevano merci, oggetti che gli avventurieri avevano depredato per poi abbandonarli. Tagli di stoffa, abiti, suppellettili, ninnoli, qualche dipinto, qualche arredo sacro. Era costume dei fratelli della costa rubare tutto, per poi gettare i pezzi di minor valore o di difficile vendita. Il cibo, per esempio. In una cunetta, tra i frammenti di una statua neoclassica, cani randagi si contendevano abbaiando i resti di un maialino arrostito. Il pirata che l'aveva trovato gli aveva dato un paio di morsi, poi, non potendo né consumarlo tutto né conservarlo, lo aveva lasciato cadere. E di giorno sfamava cani e gatti, di notte i ratti avrebbero spolpato ciò che rimaneva della carcassa. E lo stesso valeva per i cadaveri, in cui Rogerio, nel suo vagare per Campece, si imbatteva con una certa frequenza. Mostravano tutti inequivocabili segni di agonie prolungate ed erano coperti di mosche. Uno schiavo negro penzolava ancora nudo da una finestra con una corda stretta ai genitali. Lo dovevano aver fatto oscillare nella speranza di castrarlo e, non riuscendovi, avevano finito per tagliargli la gola e lasciarlo lì. Una piccola muta di randaggi saltava per cercare di addentarne il cadavere. Un altro corpo era incenerito fino all'inguine. Una donna africana, dopo lo stupro, era stata sventrata e aveva le budella arrotolate tra le gambe. Nessuna delle vittime, Rogero ne contò una quindicina, aveva la pelle bianca. I pochissimi spagnoli catturati avevano agli occhi degli avventurieri un valore economico per il riscatto che si poteva richiedere ai parenti, e anche gli indiani erano spesso risparmiati. A parte le tesi di idealisti come Ex Gemeling, che ritenevano la filibusta una nemesi scagliata sugli spagnoli per le loro atrocità contro gli indios, in genere i pirati temevano i nativi. Dovevano convivere con loro negli anfratti del Mar dei Caraibi e ucciderne uno appartenente a una tribù ignota poteva innescare vendette incontrollabili. Tutti ricordavano la fine dell'Olonè, il comandante troppo feroce con gli Arawakos. Non sapendo che fare in una città ormai morta e disgustato dal lezzo di sangue e di putrefazione incipiente, Rogerio diresse i suoi passi verso il porto. E in passato ciò che aveva visto gli avrebbe causato il voltastomaco, sebbene da bambino avesse assistito allo scannamento di un luterano e ai roghi di parecchi altri. Ora si era adeguato, suo malgrado, ad una specie di nuova concezione del mondo e nulla più riusciva a scuoterlo. La sua unica speranza di riscatto morale era chiusa in una fortezza a guardare il mare e forse nuove spiagge. Sul molo trovò quattro avventurieri di guardia alle barche. Uno lo conosceva di vista, faceva parte dell'equipaggio delle Ardì. Era un corso, Petru Vinciguerra. «Potete portarmi a bordo?» gli domandò. «Senza un braccio non riesco a remare». «Volentieri, nostromo. Ma che cosa c'è andato a fare? Ci sono solo tre uomini. La loro unica occupazione è se ne hanno voglia pulire il ponte». «E qui cosa farei?» «Tra un po' prepariamo da mangiare, abbiamo del buon rume, anche una bottiglia di vino. Dopo pensiamo di giocare a carte». Allora Rogerio decise di restare. Passò così il pomeriggio, bevendo e giocando con i camerati e mettendo in bocca di tanto in tanto bocconi di cinghiale stufato. Dimenticò un po' quei suoi crucci, anche se lancinanti lo tormentarono di nuovo i dolori al braccio perduto. Con essi venne la febbre, ma lui tentò di non farvi caso. Verso sera nitriti, clanguri e battere di stivali sulla trinchera e playa annunciarono il ritorno della spedizione di De Grammonde all'entroterra. Appena la colonna fu all'altezza dei giocatori, apparve chiaro che qualcosa era andato storto. I capitani si tenevano eretti sulle cavalcature e si mostravano impassibili. Alle loro spalle, però, avventurieri reggevano compagni feriti e bendati alla meglio, talora con mutilazioni gravi. Quelli messi peggio erano trasportati su barelle di fortuna. La truppa aveva un'aria niente affatto allegra, i tamburi e le trombe tacevano, nessuno parlava. Rogerio salì sull'arteria polverosa che costeggiava l'oceano, però non osò interpellare uno dei capitani. Si rivolse invece a Levert, a piedi ingobbito dal fucile pesantissimo che teneva in spalla. «Che cosa è successo?» gli domandò. «Un'imboscata, comandata dal governatore di Merida in persona. 900 spagnoli che ci aspettavano nella foresta hanno ucciso 20 dei nostri, tra cui il capitano Garderia, leggendario per onestà e coraggio. Comandava la goletta Notre Dame de la Fortune, che aveva ereditato una Michelle Basque, una di quelle con le vele triangolari. È dunque una sconfitta, mormorò Ruggero. No, alla fine abbiamo vinto grazie al genio militare del cavaliere De Grammont. Ci avevano sì circondati, però noi li abbiamo circondati a loro volta. E in fondo alla colonna, puoi vedere, ci sono i prigionieri. Un centinaio di spagnoli almeno. Ruggero stentava a capire. E allora perché facce tanto tristi a fronte di un successo? Perché non abbiamo messo le mani su niente, chissà dove sono gli spagnoli e i loro tesori, solo prigionieri e schiavi che non potremo neanche trasportare alla tortuga. L'unica speranza di ricavare qualcosa dalla spedizione è che il governatore di Merida accetti le condizioni di De Grammont, oro e bestiame per scongiurare la distruzione completa di Campeche. E c'è qualche probabilità, disse il gesuita allora, non lo so. Aspettiamo che Teles de Guzmán risponda. La proposta nelle sue mani. Ruggero si ritirò al lato della strada e vide sfilare il corteo dei prigionieri, moltissimi in effetti. Una ventina di soldatini spagnoli, terrorizzati, per circa 40 schiavi negri e altrettanti indigeni che di sicuro sarebbero stati posti in libertà. Tra i filibustieri della retroguardia c'era Hélène Saint-Martin, scorse Ruggero e gli sorrise. Oh, mi sono finalmente ricordato di voi, eh sì? Ci siamo conosciuti già, voi siete il gesuita espulso dalla compagnia per il peggiore dei crimini politici. Beh, per me non è un crimine, vabbè, poi ne riparleremo. Ruggero fu sconvolto da quelle parole. Ritenne il giorno, non sapeva la data esatta, ma si era sicuramente nel luglio 1685, uno dei giorni tra i peggiori della sua vita. E questi erano Rally Zero con il brano Black Cinder, dopo la prima lettura per oggi di Tortuga di Valerio Evangelisti. Ora passiamo alla controinformazione, con la prima notizia, che è un'azione avvenuta in Grecia, un attacco ad una stazione di polizia con Molotov in ricordo del compagno di lotta rivoluzionaria Lambros Fundas. Allora, leggiamo il testo, che inizia con una citazione: con le torce spente già da molto tempo, i miei vecchi compagni camminano aggirando le pupille dei miei occhi. Stringo le labbra e urlo. Succede quando loro selvaggiamente invadono le mie arterie trascinando l'asta spezzata, e là, nell'ottava arteria, in una piccola cavità del cuore, dove i miei compagni morti dormono, io inizio la mia battaglia in sussurri. Poi inizia il testo di rivendicazione: devi spingere le tue azioni ai loro limiti più estremi, metterti alla prova nella lotta con tutto il tuo essere nell'erta combattiva, trovarti nelle assemblee, manifestazioni, scioperi selvaggi, sulle barricate, proprio come lo faceva Lambros. Essere in tempo per i momenti cospiratori, presente nel mappare il nemico e la città, attento alle necessità di rifornimenti, preparato ad oliare le armi da sparo e gettarti con tutto il cuore nella lotta come un uomo. Dovresti iniziare tutti questi processi e, qualunque sia il loro inizio, assicurarti un buon fine, perché la storia rimane scarsa se noi non le diamo un tocco. Da nostra parte, muovendoci costantemente in questo contesto, abbiamo onorato la memoria del combattente anarchico e rivoluzionario Lambros Fundas sabato notte 8 marzo 2014, attaccando la stazione di polizia in Nea Chalkidona, sobborgo di Atena. Cogliendo nuovamente il meccanismo statale di sorpresa, abbiamo bruciato la macchina di pattuglia parcheggiata fuori, come pure la guardiola e l'entrata della stazione degli sbirri, mostrando a loro che sono i combattenti e solo loro che scelgono il luogo, il tempo e il modo per scatenare il loro odio contro gli stabiliti nemici della libertà. Lambros non sei stato assente da nessun momento di lotta, perché sei sempre presente, come lo sei sempre stato. Lambros non è finito. Niente è finito, perché tutto continua. Onora per sempre a Lambros Fundas, che 4 anni fa, 10 marzo 2010, ha solo preso una pausa a Daphne, Atene, e continua ad ispirarci con il suo modo personale e unico. Prima di tutto è sempre rivoluzione, fino alla vittoria. E questo era il testo che i compagni greci hanno fatto in seguito all'attacco alla stazione di polizia in ricordo del compagno Lambros Fundas, di lotta rivoluzionaria. Per chi non sa ancora bene cosa sia lotta rivoluzionaria, ricordiamo che nella sezione dove si ascoltano anche le dirette d'azione, ci sono anche alcuni documentari audio, qualcuno fatto da Marcello, e in più c'è un documentario, c'è un'intervista proprio ad uno dei compagni di lotta rivoluzionaria, che ci spiega un po' tutto come è andata la storia dalla nascita fino agli arresti. E questa era per quanto riguarda la prima notizia di controinformazione della giornata. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Group T-Fraction Disco con il brano One Will One Shout, e poi dopo si ritorna qui con Tortuga di Valerio Evangelisti. Say what you need. messo un breve intermezzo per ritrovarci là dove eravamo. Il nostro, diciamo, pirata che stiamo seguendo, Rogerio Dos Campos, ex gesuita, che poc'anzi abbiamo scoperto avere un qualcuno che lo conosceva anche prima di entrare nei Fratelli della Filibusta. Ricordiamo che nell'ultima lettura che abbiamo fatto una settimana fa, Rogerio Dos Campos si è autotagliato un braccio per accedere a quelle che sono le clausole dello Chasse Parti, l'accordo che i Fratelli della Filibusta facevano prima di ogni missione, in modo tale da riuscire ad ottenere nei suoi obblighi di pirateria la donna che ama, che è questa schiava nera molto bella, molto raffinata, che è andato a trovare laddove abbiamo letto precedentemente. Adesso passiamo ad un testa a testa. I giorni successivi i filibustieri sfogarono la collera per il mancato bottino sui villaggi dell'entroterra. Multunchak, Ebula, Katasmai, Cibik, Umayon e altri. Ogni mattina partivano a piedi o a cavallo e incendiavano piccoli agglomerati di capanne. Tornavano sospingendo pochi capi di bestiame e moltissimi prigionieri, per 4/5 indigeni, per il restante 1/5 negri. Si trovavano ad avere ormai quasi 600 ostaggi in mano, ma di nessun valore, che ammassarono nel cortile del Fuerte del Bonete. Ne sottoposero una buona parte ai più feroci tormenti, senza alcun risultato però. Alcuni spirarono. I sopravvissuti non sapevano nulla di tesori nascosti. Tutti urlarono, mentre venivano sottoposti a bruciature, scorticamenti e mutilazioni atroci, che gli spagnoli si erano rinchiusi in Merida sotto la protezione di migliaia di soldati fra le mura imprendibili. La corte del Bonete cominciò quindi a puzzare di sangue e di escrementi. Le vettovaglie presero a scarseggiare. Per fortuna arrivò finalmente l'uomo che De Gramont aveva atteso fino a quel momento, uno spagnolo a cavallo, forse un piccolo aristocratico a giudicare dalle vesti e dallo spadino. Era il messo del governatore di Merida, Tellez de Guzmán. Recava una missiva indirizzata al vicegovernatore della Barrera. De Gramont si fece condurre davanti l'illustre prigioniero mentre i filibustieri si disponevano a semicerchio tra il fortilizio e il mare, e consegnò a della Barrera il messaggio e gli ordinò: leggete ad alta voce. Il vicegovernatore, dopo tanti giorni di prigionia, era lido e smunto. E anche De Gramont era cereo per i continui dolori che gli causava la gotta, e tuttavia rimaneva autorevole e in qualche modo imponente. Gli altri capitani e gli equipaggi della flotta lo adoravano. Rogerio aveva minori motivi di simpatia, eppure era costretto ad apprezzare il suo rigore. Teneva le file di una spedizione chiaramente fallimentare con pugno di ferro. Usciva tutte le mattine alla testa dei drappelli dei razziatori e sempre in prima linea. Incuteva un rispetto naturale. Dopo aver tossito ripetutamente, il prigioniero lesse: il governatore de Merida, per grazia della loro maestà i sovrani di Spagna, Juan Bruno Tellez de Guzmán, al vicegovernatore con sede in Campeche, Don Felipe de la Barrera y Villegas. Amico mio, conosco la situazione in cui vi trovate e ne sono angosciato. Vi prego, malgrado ciò, di riferire la mia risposta all'uomo che vi tiene prigioniero, un oscuro suddito del re di Francia che risponde al nome di Michel de Gramont. Costui ha avuto l'ardire di minacciare la distruzione totale di Campeche se non soddisfarò la sua richiesta di denaro e capi di bestiame. Ha alcuni prigionieri spagnoli, anch'io ne ho dei suoi, e mentre vi scrivo sento il martellare di fabbriche che eriggono nel centro di Merida un numero congruo di forche per impiccarli. Riferite al presunto cavaliere de Gramont che può fare di Campeche ciò che desidera. Il regno di Spagna ha oro a sufficienza per riedificare la città. Quanto ai nostri cittadini che detiene, stia attento. Se torcerà loro un solo capello, ne risponderà davanti a Dio, ma per prima ancora davanti a me. Venga, venga sotto le mura di Merida se ha coraggio. Non lo farà. Sa che sono imprendibili. Sa anche che la flotta spagnola è in arrivo e da me non avrà né bestie né denaro. Solo un consiglio: se ne vada finché ne è il tempo. Il suo stesso re non lo sostiene più. Lasciata Campeche. non saprà più dove approdare. Un urlo furioso che già montava durante la lettura diventò un vero ruggito al momento della conclusione. I filibustieri si spinsero in avanti, schiumanti di rabbia, agitavano spade, daghe, pistole, accette. A Merida, gridavano alcuni. Muerte a los españoles, si scollavano altri, sbudelliamoli. Non ne resti in vita uno solo, che la razza spagnola sparisca dal nuovo mondo. L'ultimo grido fu lanciato da Ruggero e ripreso da centinaia di voci rauche. De Gramont, in cui tratti fini apparivano adesso leggermente diabolici, alzò la mano destra. Silenzio, fratelli! E fu obbedito all'istante, anche grazie alla bestemmia che unì al comando. E si rivolse a Lorenzillo, in sella accanto a lui. Laurent, dov'è il messaggero del governatore di Merida? Eccolo là! Il nobiluccio spagnolo tremante e ingobbito era tenuto in piedi da due arawakos. Forse quel semplice contatto era per lui già una tortura. Li sapeva cannibali e quindi prevedeva il peggio. «Quanti prigionieri di pelle bianca abbiamo?» chiese De Grammont. «25 o 26», rispose Lorenzillo. «Sono quelli che cagano di più nel cortile del mio castello, che il diavolo li porti. Un negro caga di meno e un indiano non caga affatto. Io governo dal buonete una serie impressionante di flatuenze.» De Grammont non ascoltò nemmeno le lamentele di De Graff e ordinò secco, dopo una sonora bestemmia: «Voglio entro 5 minuti gli spagnoli catturati qua e in ginocchio, mani e piedi legati.» Fu obbedito immediatamente. Poco dopo erano di fronte a lui, le ginocchia nella sabbia, prigionieri di pelle bianca di varia condizione. Si andava dagli ex comandanti dei forti a un paio di ufficiali fini, a semplici soldati, padroni di osteria, operai e donne di fatica. Piangevano, tremavano, bisbigliavano frasi sconnesse. Nessuno di loro finora era stato torturato. Si trattava di ostaggi che potevano avere un valore economico, per quanto modesto. De Grammont si guardò attorno, notò la muscolatura possente di Hans van der Laan e la sciabola d'abbordaggio che gli pendeva al fianco, subito sotto la cintura. Allora gli fece cenno di avvicinarsi, indicò l'ex comandante del buonete. «Riusciresti a tagliare la testa di quel pezzente in un colpo solo?» «Posso provarci», rispose il marinaio. «E allora fallo, se ne sei capace avrai il doppio del premio d'ingaggio. Agli ordini, mi capitano.» Hans sollevò la sciabola e la calò con tutte le sue forze sulla nuca del prigioniero. La testa si staccò e ruzzolò lontano, con uno strano sorriso stampato sulle labbra. Il corpo si afflosciò spruzzando sangue con l'impeto di un geyser. I filibustieri applaudirono. De Grammont annuì compiaciuto: «Molto bene, e adesso decapita tutti gli altri.» Gli uomini in ginocchio urlarono, supplicarono, si torsero sul terreno. Chi invocava la Vergine, chi la propria madre. Della Barrera corse verso De Grammont e gli toccò un ginocchio. Grave sbaglio, poiché il gesto costrinse il capitano ad una smorfia di dolore. Il vice governatore non se ne accorse e disse accorato: «Non potete fare questo.» «Oh, sì che posso», rispose De Grammont. «Tenetevi lontano da me o la vostra testa rotolerà con le altre.» Hans continuò il suo lavoro, solo che adesso era stanco. I prigionieri si muovevano e i colpi divennero imprecisi. Per tagliare un collo gli servivano diverse sciabolate, mentre la vittima gridava come un'ossessa e gettava laghi di sangue. Al quinto decapitato il marinaio si terse il sudore che ormai lo accecava. «Chiedo il cambio, mi capitan.» E approfittando della sosta della Barrera si precipitò, le mani giunte ai piedi di Lorenzillo. Aveva le lacrime agli occhi. Voi capitano, che siete più umano, intervenite, vi prego, fate cessare questa barbarie.» Lorenzillo non guardò nemmeno il supplicante, però accostò il proprio cavallo a quello di De Grammont. «Direi che basta, ammiraglio. 5 spagnoli senza più testa, persino il boia è stanco.» E il cavaliere De Grammont lo guardò con stupore. «Che vi prende, Laurent? Non sapete quanta gente riesce a bruciare viva l'Inquisizione spagnola in un solo giorno? E io dovrei essere più caritatevole della corona della Chiesa di Spagna, e perché mai?» Astutamente Lorenzillo ricorse agli unici due argomenti capaci di smuovere De Grammont. Gli uomini ne hanno abbastanza, ammiraglio. Hanno applaudito le prime due decapitazioni. Adesso non applaudono più e si mostrano annoiati e scontenti. Messo a segno il primo tema, aggiunse: voi state distruggendo uno dei pochi bottini di guerra scovati a Campeche che abbiano un unico valore commerciale. Un bianco, anche se di umili condizioni, può essere oggetto di riscatto, per Dio. Tolti di mezzo i 20 rimanenti, non ci resteranno che 600 fra negri che valgono poco e indiani che non valgono nulla. Un carico infetto che sui mercati dei Caraibi si vende a 2 soldi. Non è una buona politica, demonio, suino, sbarazzarsi della merce di qualità per tenere quella variata. De Gramont aggrottò la fronte, si capì che rifletteva, infine alzò un braccio. Basta così, ne abbiamo accoppati a sufficienza. Dalla folla dei filibustieri si sollevò un sospiro liberatorio. Abituati alle peggiori crudeltà, sopportavano con disagio di vederli applicati a uomini in loro balia, allineati secondo il grado, e ciò ricordava troppo le discipline a cui erano fuggiti, quelle delle galere da guerra, delle marine militari, dei battaglioni di fanteria d'assalto. Un avventuriero uccideva e depredava, ma a modo suo, senza un calcolo cosciente. Era belva, sì, però non molosso scatenato in una caccia alla volpe. Rogerio stesso aveva applaudito alla prima decapitazione tecnicamente perfetta, anche la seconda quasi altrettanto riuscita. Le successive lo avevano disgustato. Non era giusto inseguire un uomo che si torceva sul terreno come un verme e infliggergli sciabolate multiple fino a staccargli il capo dal collo. Temette di ritrovare certe urla disumane nei suoi incubi. E in quale inferno era mai capitato? De Gramont fece condurre al proprio cospetto il messo del governatore di Merida, strappato da cavalli. Questi era basso e insignificante, vacillava sulle gambe, ogni suo arto tremava, il viso, da borghesuccio mediocre, quasi svaniva nel pallore, perdeva rivoli di muco dal naso, come se faticasse a respirare e tossiva. Signore, gli disse il cavaliere grave, avete appena avuto prova della mia umanità. Circa 600 uomini e donne, tra cui 20 spagnoli, sono ancora in vita. Don Tellez de Guzman non si azzardi più a inviarmi lettere oltraggiose ora. Vi condurrò per le vie di Campeche. Assisteremo al rogo delle case rimaste, non le capanne, quelle in pietra. E tenete gli occhi aperti perché dovrete riferire. Il messo recuperò un filo di voce. Ma chi siete voi che operate per il male? De Gramont tirò le rendini al suo cavallo che scalpitò, lanciò allo spagnolo un'occhiata divertita. Oh, io! Io non sono il diavolo, se è questo che credete. Io, piuttosto, sono il futuro. E proruppe in una bestemmia alla Madonna di un'oscenità mai udita. Cercatevi un destriero che si va a infliggere a Campeche il colpo di grazia. Il governatore di Merida, quando entrerà qui, troverà una città morente o morta del tutto, se non accetterà le mie condizioni. Cominciò una cavalcata impressionante che durò ore. I filibustieri seguivano il loro capitano, per metà invasati, per metà spaventati. Rogerio era tra i secondi. Verso sera, quel limbo di coste era fiamme e rovine. Tornate da Don Tellez. Tellez de Guzman, disse De Gramont al messaggero. Non sembra, ma posso fare anche di peggio. Sfido chiunque a fermarmi, fosse anche il buon Dio in persona. Terrorizzato, lo spagnolo spronò il cavallo e sparì al galoppo tra incendi e muri che crollavano. We'll be right back. E questi erano gli Insect con il brano Pain Inside. Ora si continua con la controinformazione. Prima si era letta un'azione che arrivava dalla Grecia, ora dalla Germania, Berlino, dove c'è stato un attacco incendiario al Banco Santander. Leggiamo il testo. Nella notte del 6 marzo 2014 abbiamo dato fuoco ad una filiale della Banca Santander a Neukölln, a Berlino. Neukölln, a Berlino. Abbiamo distrutto un pannello di vetro e acceso un ordigno incendiario ad azione ritardata. Dedichiamo questa azione ai catturati e ai morti da parte del sistema capitalistico in Cile e Spagna. Prima di tutto a Tamara Sol e a Sebastian Overslugi Segel. La mattina dell'11 dicembre 2013, il compagno anarchico Sebastian Overslugi Segel è stato ucciso in Padahuel, un sobborgo di Santiago, durante un tentativo di rapina in banca. Una guardia di sicurezza privata del Banco Estado ha ucciso il 26enne con 6 colpi di pistola. Da allora vi sono state numerose reazioni da parte del movimento anarchico riguardo a questo omicidio. Il 21 gennaio 2014 la compagna Tamara Sol Farias Vergara entrò in una filiale della stessa banca nel centro di Santiago e, sparando alla guardia, gridò vendetta. Poi, come lei dice, prese la pistola della guardia. Poco dopo fu arrestata. Tamara ha rifiutato qualsiasi collaborazione con le autorità ed è tenuta in detenzione preventiva. Questo è un estratto da un articolo in tedesco sulla giornata del giovane combattente in Cile. Un video di complicità è stato rilasciato dal movimento sull'omicidio di Sebastian e sull'azione vendicativa di cui Tamara è accusata. Recentemente, il 3 febbraio 2014, la famiglia Vergara Toledo di Villa Francia, Santiago, si è espressa in una lettera aperta sull'arresto e sulla situazione attuale di Tamara. Dall'assassino di Sebastian, Alfonso Avialle e Hermes Gonzalez sono tenuti in detenzione preventiva. Inoltre vorremmo ricordare Monica Caballero e Francisco Solar. Dopo un'operazione lanciata dalle autorità cilene e spagnole, si trovano incarcerati in Spagna prima del processo. Entrambi erano già accusati in Cile per il caso Bombas. Salute anche agli accusati del caso Security in Cile e agli attivisti in Barcellona che, come noi, considerano le banche adatte per le azioni di solidarietà. Santander è la più grande banca nel mondo di lingua spagnola. È responsabile degli sgomberi forzati e per le garanzie offerte per il traffico delle armi. Questo è per noi anche un buon motivo per vedere le lotte di qua e di là come una nostra lotta comune. Le istituzioni per le quali il capitale è più importante della vita umana saranno sempre le mete dei nostri attacchi. Comando Sebastian Overslugi Segel, libertà per tutti i prigionieri. E ricordiamo che Berlino non è semplicemente la capitale della Germania, Berlino è stata sempre un'isola di approdo di tanti compagni di gruppi di affinità che là agiscono nei meandri della metropoli, che comunque c'è sempre un supporto tra chi vive e è nato in un posto e chi è arrivato e continua e sviluppa le lotte. E quindi dopo questa affermazione, questa precisazione di Marcello, mandiamo il prossimo brano. Il prossimo brano che è di Time Tiffany con il brano Borderline, e poi dopo si ritornerà qui con il continuo della lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. Lo ricordo, penultima lettura, poi cioè penultima lettura nel senso serie. Oggi lunedì, penultimo giorno in cui si legge Tortuga, poi lunedì prossimo sarà proprio l'ultimo giorno. Ci avete un po' di tempo per mandarci qualche mail e suggerirci se volete farvi leggere qualcosa. Allora, Time Tiffany, Borderline e poi Tortuga. I'm gonna lose myself. è ancora con un fine di luce, in cadenza di primavera e non in fine estate. Continuiamo invece a parlare del 25 agosto 1685, gli avventurieri che occupavano la spianata di cenere in Macerie, che era stata una volta Campece, celebrarono l'onomastico del loro sovrano, Luigi XIV. Fu un giorno intero di fuochi artificiali, di danze sguaiate fra marinai attorno agli ultimi falò, di canti e di bevute. Nella città in rovina non rimasero né una bottiglia piena né una botte intatta. Tuttavia i capitani, sobri per ordini dei Grammont, badarono a che la festa non degenerasse. Convogliarono anzi i frati smunti e tremanti del convento di San Francisco, che nessuno aveva avuto l'ordine, l'ardire di saccheggiare, verso il porto, perché celebrassero una messa solenne in onore del re di Francia. E fu uno spettacolo bizzarro vedere centinaia di pirati coordinati da Lorenzillo in persona inginocchiarsi nella sabbia e, ebri com'erano, fare mille sforzi per rialzarsi. Ovviamente il cavaliere De Grammont non partecipò alla cerimonia che pure aveva ordinato. Non ce l'aveva tanto con il clero quanto con Dio in persona. Per lui la religione popolare dei suoi uomini era al massimo una cosa utile, capace di dare un senso ai loro delitti. E non parteciparono alla funzione nemmeno i capitani di fede ugonotta come Focar, Texar, né i pochi inglesi aggregati alla spedizione. Quanto ai pirati cattolici, inclusi i bucanieri, le preghiere scorsero inframmezzate dai rutti. Al momento della predica, un francescano spagnolo mandato avanti dai confratelli cercò di bofonchiare qualcosa. L'amore che regge il mondo, balbettò, e il sacrificio di nostro Signore persino in tempi così violenti. Taci, cornacchia, gli gridò Lebono nelle ultime file. Per l'occasione si era anche tolto la pipa di bocca. Abbiamo tra di noi un gesuita che rappresenta al tempo stesso, meglio di chiunque altro, il buon Dio e i fratelli della costa. Sa perfino calmare le tempeste a furia di preghiere e usare la sciabola come si conviene. Deve essere lui a celebrare l'onomastico del re e a pronunciare il sermone. Non è vero, compagni? La maggior parte degli astanti applaudì. Il francescano, intimidito, si ritirò dall'altare e forse ciò gli fu di sollievo. Rogerio, fatto oggetto di pacche sulle spalle e di spintoni amichevoli, si trovò al centro dell'assemblea, senza capire bene cosa stesse in realtà avvenendo, e dovette schiarirsi l'ugola prima di riuscire a imbastire un discorso coerente per quanto improvvisato. Fratelli, hermanos, esordì nel suo francese insicuro, condito da piccole parole di spagnolo. Noi salutiamo qua l'onomastico del più potente re d'Europa. È stato capace di contenere la prepotenza spagnola che esigeva per sé questo intero continente. Ha protetto in ogni modo la fede cattolica e i suoi portavoce. Dio è con lui, ma è anche con noi che in nome di Luigi combattiamo in questi mari. Abbiamo punito duramente Maracaibo, Panama, Veracruz e ora Campeche. Con cristiana intenzione vendichiamo le crudeltà sofferte dagli indiani e ripartiamo il bottino secondo equità e giustizia, senza dimenticare di riservarne una quota al nostro re. Ci trattano da banditi e invece siamo eroi. Eroi che la perfida Spagna giustamente teme. E credo di non recare oltraggio all'istituto sacro della messa e ai buoni francescani qui presenti se ora vi invito a brindare ancora una volta a Luigi. È un omaggio non solo al re, ma anche al nostro Signore che l'ha voluto sul trono, la nostra maniera di pregare. Rogerio aveva parlato a ruota libera in cerca di consensi, si aspettava che la sua perorazione avesse successo, tuttavia non in quelle proporzioni, e infatti vi fu una salva di urrà, di grida rauche, di evviva, interrotti da singulti. Le bottiglie ancora intatte ripresero a passare di bocca in bocca senza che i capitani, un poco inquieti, potessero farvi nulla. La messa fu completamente dimenticata e i francescani, temendo il peggio, fuggirono alla chetichella. Alcuni filibustieri, malfermi sulle gambe, sedettero addirittura sull'altare, ma non senza essersi prima devotamente segnati. Si gridava: «Vive il re! Vive la France! Viva Louis!» e anche «Vive il nostro gesuita!» Vi fu chi intonò la bamba, imitato da un coro di voci stonate. Gli ultimi fuochi artificiali irrigarono il cielo con le loro scie multicolori. «Paia, paia, la bamba! Paia, paia, la bamba!» nelle pezzi. Tra le varie esclamazioni, più o meno congrue, una raggiunse Rogerio con la violenza di uno schiaffo e lo fece trasalire. «Al basso il traditore Fouquet! Evviva chi l'ha fatto incarcerare e assassinare!» Il portoghese cercò febbrilmente con lo sguardo chi aveva lanciato il grido e incrociò gli occhi di Alain Saint-Martin seduto su un muretto diroccato accanto a Michel Truin. E fu un'occhiata ostile. Ciò voleva dire che l'ex gesuita si era ricordato le circostanze in cui aveva incontrato Rogerio e che era al corrente del suo passato. Un pericolo gravissimo, e Rogerio sudò freddo. Gli altri avventurieri, per due terzi ubriachi, non fecero caso a ciò che San Martin aveva urlato. Probabilmente pochi tra loro avevano udito parlare di Nicolas Fouquet, sovrintendente alle finanze di Luigi XIV, morto 5 anni prima nella fortezza di Pignerol in circostanze mai chiarite. L'uomo era legato ad una ala della Compagnia di Gesù e in viso a quella fedele alla corona. Fu un processo dalle procedure dubbie che era sfociato in un'incarcerazione che aveva indignato anche i peggiori nemici di Fouquet, incluso l'illuminista Voltaire. Poi era sopraggiunta la morte, forse per veleno. Ma pochi giorni prima il sovrintendente, caduto in disgrazia, aveva ricevuto la visita di un gesuita che aveva cercato di trascinare dalla sua parte. Quel gesuita era un portoghese. Rogerio fu distratto a forza dalle proprie riflessioni. La masnada della filibusta, ormai completamente ebra, cantava e danzava. Venne afferrato da braccia robuste e portato in trionfo tra gli evviva e gli applausi. Il moncherino ricominciò a dolergli fino a fargli lacrimare, tanto lancimanti erano le fitte. Nessuno se ne accorse. Lo lasciarono cadere al suolo, solo dopo aver trascinato fino a un recinto per il bestiame in cui erano ammassati schiavi indigeni catturati. Ai filibustieri interessavano le donne, per quanto obese, brutte, in età spesso avanzata oppure ancora bambine. E allora si scordarono del loro gesuita e si occuparono d'altro. Un ultimo fuoco artificiale solcò l'azzurro purissimo del cielo, unica cosa pura del contesto. La celebrazione dell'onomastico di Luigi XIV finì lì. L'orgia e le sue conseguenze fecero ritardare di 3 giorni la partenza. Il cavaliere de Grammont non era tipo da tollerare ostacoli ai suoi piani, ma i fratelli della costa non ammettevano le fustigazioni, pena consueta per gli indisciplinati sulle flotte regolari, e così il capitano scelse a caso 5 ubriaconi e li regalò agli Arawakos perché li mangiassero. Mentre disgraziati urlavano ancora nel bosco su un letto di braci, radunò gli equipaggi sul molo e disse: «Monsieur, entro sera si salpa. C'è il rischio che il governatore di Merida piombi qua con forze soverchianti e so per certo che decine di galeoni da guerra spagnoli ci stanno per venire addosso. Abbiamo solo un giorno per allontanarci e vi devo confessare che campeggia», e aggiunse, indicando il panorama di macerie ancora fumanti alle sue spalle, «ci ha deluso. poco argento, pochissimo oro, legno pregiato sì, ma non molto, numerosi schiavi, ma di valore commerciale nullo. Io ho già ordinato di liberarli una volta che i mutilati avranno scelto i loro in mancanza di denaro. Ripartiremo le braccia come da contratto. Liberare gli schiavi? È un atto di grande umanità, ammiraglio, commentò Lorenzillo in piedi accanto del gran mono sotto il terrapieno di Fuerte del Bonete. Un vento impetuoso che si levava a tratti ad attenuare le afa gli sollevava il mantello e il sorrisetto impertinente di De Graff non permetteva di capire se celiasse o dicesse sul serio. Ma il cavaliere De Gramono lo fulminò con un'occhiataccia e tornò a rivolgersi alla platea dei filibustieri. È impossibile fare altre ripartizioni finché non avremo rivenduto almeno una parte del bottino. Tuttavia, possiamo già risarcire i fratelli feriti gravemente con il numero di neghi che spetta a loro, negri e non indiani, per non inimicarci tutti i selvaggi della costa e quelli che combattono con noi, e quindi si facciano avanti gli aventi diritto. E furono una trentina a farsi avanti, chi appoggiandosi ad una stampella, chi con bende su un occhio o su un orecchio, chi senza una mano o privo perfino di ambedue le braccia. L'unico cieco completo fu sorretto da un compagno, un uomo senza gambe strisciò sulla sabbia. Rogerio inspirò e marciò in testa al gruppo. Le Bonner e Scamelling intuirono le sue intenzioni. Il primo gli poggiò una mano sulla spalla. Non fare stupidaggi, gesuita, non è il momento. Lasciami, replicò Rogerio e seguitò a camminare. Davvero, attendete un'occasione migliore, gli bisbigliò Scamelling. Un atto inconsulto potrebbe avere conseguenze tragiche. Pensate alla fine che ha fatto Pepe Canseco. So bene quel che faccio. E in effetti Rogerio aveva valutato a fondo i possibili rischi che correggeva e i vantaggi della circostanza. De Grammon, al di là delle apparenze, era un comandante indebolito che non aveva saputo assicurare ai suoi uomini un bottino decente. E come poteva ordinare adesso di tagliare la gola al proprio Nostromo, che la predica di 3 giorni prima aveva reso popolarissimo? Quando mai del resto si sarebbe ripresentata un'opportunità del genere? O adesso o mai più. Si portò Rogerio davanti a De Grammon, lo salutò con un inchino e disse, indicando il braccio mancante: «Oh, mi capitan, mi sono battuto con onore per voi e per la Francia, ho sacrificato un arto, credo di aver conquistato il diritto ad uno schiavo di mia scelta». Il cavaliere aggrottò le sopracciglia. Certo, aveva intuito dove il subordinato volesse andare a parare. «Nessuno mi nega questo privilegio», rispose burbero. «Andate al recinto e scegliete il nero che più vi aggrada. Non è uno schiavo, ma una schiava, e non è nel recinto. Spiegatevi. Spiegatevi, vi ho detto». Rogerio si rizzò sul busto, fissò De Grammon e scandì: «Voglio la donna africana che è racchiusa nel forte, quella che avete parlato e portato fin qui sulle ardi. Altri schiavi non mi interessano, lei è lei che mi spetta». Dalla folla degli avventurieri si levò un brusio. De Grammon lasciò la peggiore bestemmia della sua vita blasfema. «Ti spetta in nome di coso, pretonzolo dei miei coglioni», e portò la mano all'elsa della sciabola. Rogerio non si lasciò intimidire. «Mi spetta perché ero compare del defunto Pepe Canseco e dunque per metà sposato con la ragazza. Mi spetta perché sono stato io a salvarle la vita. Mi spetta perché ho perso un braccio combattendo per voi, signore. Mi spetta perché la legge dei fratelli della costa non permette che un capitano, valendosi del proprio grado, strappi a un marinaio i suoi diritti». E vi fu un silenzio prolungato. De Grammont, sconvolto da tanta impertinenza, non sapeva che dire. Tormentava la sciabola, ma non si decideva a estrarla. Poi, nelle ultime file, qualcuno si azzardò a battere le mani. «Che vive Gesuita!» gridò. A Ruggero parve di riconoscere la voce di Auguste Lebrazzi, il cuoco del Neptune, però non ne fu sicuro. Un istante dopo tutti applaudivano, tutti quanti. Entusiasti, le grida assordavano: «Che vive il Gesuita! La schiava gli spetta! Deve essere sua! Es la lei e la legge!» De Gramont divenne pallido come nei peggiori attacchi di gotta. Lorenzillo, che non sorrideva più, se ne accorse e gli toccò il braccio, facendogli lasciare l'ista della sciabola. «Temo che non ci siano alternative, ammiraglio. Dovete lasciare la bella al vostro nostromo.» E senza attendere risposta si rivolse alla masnada: «Compañeros, hombres della filibusta, conformemente alle nostre regole, il cavaliere De Gramont accetta la richiesta del gesuita e gli lascia la schiava che desidera. Che vivano felici, maiali di un demonio. Qualcuno ha obiezioni?» «Io!» Chi aveva parlato era Monsieur Truin. Lorenzini lo guardò con stupore: «E quali sarebbero gli impedimenti?» «Il bretone», additò Rogerio. «Il gesuita è una spia di Luigi XIV di Colbert, mandata fra di noi per perderci.» Questi era Mica Vainio, per chi non lo conoscesse, uno dei componenti dei Panasonic, band famosa del genere industrial, con il brano Teutons. Leggiamo l'ultima notizia per oggi della controinformazione e poi dopo leggiamo l'ultimo paragrafo per quanto riguarda Tortuga, poi finiamo perché siamo in orario preciso. Allora, l'ultima notizia arriva dal Cile, un attacco a un bancomat a Santiago che apre la giornata di agitazione internazionalista e solidaria. Quella, per chi non lo sapesse, in solidarietà con i compagni del caso Security, di cui potete, su cui potete aggiornarvi sia sul sito di radiazione che sul sito fatto apposta per questo caso. Lo ricordo, trovate il banner sulla sidebar, ci cliccate sopra e leggete sia il testo della chiamata della giornata solidaria che il link che vi riporta al sito dove ci saranno tutti gli aggiornamenti sul caso, la storia e tutto quello che concerne il caso Security. Leggiamo il testo rivendicativo. Pochi giorni prima che i giudici e i pubblici ministeri giocheranno e decideranno sulla vita dei nostri compagni, mostrando nuovamente il labirinto oscuro e sinistro della punizione esemplare contro coloro che fanno parte della guerra attaccando l'ordine dello Stato capitale, noi riteniamo necessario di esprimere la solidarietà concreta, perché quei torturatori mercenari della libertà sentono il peso dell'irrefrenabile azione rivoluzionaria gemellata con la storia della lotta e la coerenza dei compagni accusati dell'assalto ad una filiale della banca e la morte del capo Luis Moyano del 2007. Sono trascorsi 6 anni in cui il potere e la stampa nelle loro dinamiche repressive hanno molestato e insultato i compagni imprigionati e i loro parenti stretti con delle tattiche, con dei giochetti sporchi che superano la stessa legalità che loro difendono. A seconda dei diversi contesti in cui si sono sviluppati la persecuzione e giudizio politico, l'autorità ha dimostrato che la morte di uno sbirro è l'argomento facile per arrestare chi fa della sua vita una minaccia latente contro l'inerzia dell'attuale ordine cittadinista e democratico. Nel segno della giornata di agitazione solidaria internazionalista dal 14 al 15 marzo, il nostro attacco pretende essere un invito complice per chi va oltre la teoria per impugnare irriducibilmente l'azione insurrezionale, in modo da far avanzare le nostre convinzioni belle e disordinatamente davanti alle orribili mura di quella prigione di massima sicurezza dove cercano di annullare le posizioni di lotta dei nostri compagni. Così come prendiamo posizione ricordando e portando per le strade i nomi e le idee degli altri compagni imprigionati per questa guerra sociale nel territorio controllato dallo Stato cileno. Perché abbiamo una responsabilità rivoluzionaria e di fronte alla storia la nostra solidarietà distrugge anche i confini, lingue e bandiere, avanzando decisi con il pugno alto quando si tratta di difendere i compagni detenuti dal gioco di altri stati, consci che il coordinamento dei potenti non ha confini. Allo stesso modo, questo giudizio e la sua montatura non deve passare inosservato da coloro che si scontrano con le autorità, essendo una fonte di esperienza e di analisi. Noi crediamo che altre storie di lotta devono essere ricordate. La memoria è un'arma e ricordiamo Johnny Caricheo, Norma Vergara che sono caduti in qualche mese di marzo. A 3 mesi dalla morte di Sebastian Vesluci per l'espropriazione, pochi mesi dopo il 5° anniversario della morte di Mauricio Morales, difendiamo la vita di lotta che i compagni decisero di adottare per affrontare il potere e le sue dinamiche. E poi sotto l'articolo che trovate anche su Radiazione c'è un link che è della stampa borghese che ci inviano i compagni che ci hanno inviato il testo di rivendicazione, che praticamente, vabbè, lo leggete, chi lo vuole leggere noi lo mettiamo, chi lo vuole leggere si va a rendere conto un attimo della situazione, dell'aria che si respira nello Stato cileno in questo periodo. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Stankind con il brano Fust du Dick, cioè abbiamo il tedesco fortunatamente. Danke schön. E dopo l'ultimo paragrafo di oggi per quanto riguarda Tortuga di Valerio Evangelisti, poi ci salutiamo, abbiamo gli indirizzi utili, gli appuntamenti e tutto il resto. Stay kind e dopo Tortuga. E dopo quella rivelazione vi fu un silenzio stupefatto. Lorenzini nervosito puntò l'indice contro Michel Truan. Le vostre asserzioni sono gravi, ufficiali. Siete in grado di provarle. Owe! E Truan indicò l'uomo che gli era allato, Alain Saint-Martin. Costui, Rogerio Descampo, sarà gesuita, lo lascio testimoniare. Parlate a lei, parlate. L'altro si carezzò la barba corta e disse: mi ci è voluto del tempo per riconoscere quel bastardo, adesso però ne sono sicuro. È lo stesso portoghese che testimoniò al processo contro il sovrintendente Fouquet. Dopo aver conquistato la sua fiducia e avergli promesso il sostegno della Compagnia di Gesù, è lo stesso che visitò Fouquet poco prima che morisse avvelenato. È un traditore, è una serpe, un serpente. Rogerio si liberò in fretta dai timori che l'avevano invaso. I filibustieri non si intendevano molto di quelle accuse riguardanti una sfera politica a loro completamente estranea. Lo stesso Lorenzini appariva perplesso. «Cosa vi fa pensare che ci voglia rovinare tutti?» chiese De Graaf. La risposta non fu tale da dissipare i dubbi. «È un agente di corte!» gridò Truan. «Un servo di Colbert! Non può essere qua per caso!» Lorenzini allora volse lo sguardo in direzione di Rogerio e disse: «Gesuita! Come rispondi a queste imputazioni?» E il portoghese ritrovò istantaneamente la calma più completa. Parlò con accento sottilmente beffardo. «Io, agente del re. Se anche fossa, mi risulta che 3 giorni fa abbiamo celebrato il compleanno di Luigi confermandogli la nostra obbedienza, ma così non è, e io non sono l'agente di nessuno. Sono stato catturato e arruolato a forza. Voi, capitano, lo sapete meglio di ogni altri. Ai fratelli della costa ho reso servigi apprezzati, inclusi alcuni che non è bene dire pubblicamente che voi e il cavaliere di Grammont conoscete. Col grado che ricopro poi non potrei proprio rovinare nessuno.» Con occhi quieti e nuovamente ironici di Lorenzio dimostravano che l'autodifesa era stata efficace. Chiese più che altro per dovere: «C'è qualcun altro che vuole intervenire?» «Io!» François Levert alzò la mano. «So per esperienza diretta che il gesuita non agisce agli ordini della corona. Non so chi diavolo fosse questo Fouquet e non me ne importa nulla. Non ho dubbi però sul fatto che quel portoghese sia un bravo compagno e chi lo accusa è un vigliacco.» Era un semplice timoniere a parlare, eppure, o forse proprio per questo, la sua deposizione fu decisiva. Si levarono degli urrà dedicati a Rogerio, che Lorenzio interruppe alzando la mano. Guardò De Grammont. «Cosa decidete, ammiraglio?» Rogerio fremette. Il momento era delicato. Il cavaliere avrebbe potuto approfittare delle accuse, per quanto fumose, liberarsi di lui o strappargli la manta. Ma De Grammont era di indole troppo nobile per sfruttare l'occasione. «Abbiamo perso anche troppo tempo», sbuffò. E indicò Truan e Saint-Martin. «Quei due piantagrane non li voglio a bordo, di pretacci. Ne abbiamo anche troppi, siano gettati ai pesci!» E lanciò l'ennesima bestemmia. «Quanto al gesuita, avrà la ricompensa che pretende. E adesso tutti alle navi, gli spagnoli sono vicini, non devono piombarci addosso mentre siamo persi in chiacchiere inutili, per Dio!» L'ordine fu accolto con entusiasmo, gli avventurieri ne avevano abbastanza di restare a terra fra le rovine di una città che non poteva offrire più nulla. Meno di 2 ore dopo disfatti gli accampamenti e liberati gli schiavi in sovrannumero, decine di scialuppe e barcacce presero a filare sull'acqua tra i riflessi di un sole già basso e ingrandito in direzione dei velieri. I natanti più grossi caricavano i cavalli, nonché bovini, magrissimi maiali e pollame razziati nella selva. Molto minore era il peso del bottino, a parte il legname pregiato, un cumulo di ammennicoli dorati e argentati, candelieri, posati, quadri di dubbio valore, qualche spada, un fascio di fucili, botti di vino e di acquavite, un bric-a-brac da poche migliaia di scudi. Rogerio a remo con le verte, magari ed altri sulle erdi, non condivideva l'allegria dei compagni. Sì, si era sbarazzato di due nemici, Troane e Saint-Martin, aveva sì goduto quando li aveva visti spingere in mare entro gabbie di ferro di forma umana da una calca feroce e festante. Ora, però, sul brigantino sarebbe stato faccia a faccia col cavaliere de Grammont. Il capitano gli aveva garantito la ricompensa sperata e certo non sarebbe venuto meno alla parola. Questo però non avrebbe messo Rogerio al riparo dal suo probabile rancore. Unica effimera consolazione per il portoghese era la presenza ai remi del negro Bamba, passato dal Neptune all'Erdi. Aveva avuto rare occasioni per parlare con l'ex schiavo e tuttavia fruiva della sua allegria naturale e perfino contagiosa. E fu proprio Bamba a chiedere a Macari con il fiatone per vedere la voga: quali sono gli ordini, signor primo ufficiale? Che intendi dire? Cosa si fa? Dove si va? Se mi è lecito chiederlo senza una vita spericolata. Macari col fiatone anche lui si strinse nelle spalle. La flotta si divide anche per ragioni di prudenza. Anzizon, Vigneron, Focar e altri cercheranno un'isola dove carenare. Grogny torna a Port Royal con Retexar e Pennu. Lorenzillo, De Gramont e Nicolas Brigou, che è arrivato pochi giorni fa su una goletta catturata, pensano di far vela sulla Isla Mujeres per calatafare gli scafi e decidere nuove prede. Pier Botto intende tornare alla Tortuga per vedere qual è la situazione. La Isla Mujeres. Ottimo, pensò Rogerio. Guardò la barcaccia lontana su cui aveva preso posto De Grammont. La schiava sedeva a poppa presso il timone, vestiva ancora abiti eleganti da grandama. La fissò intensamente come se ciò avesse potuto indurla a guardarlo, ma lei non si girò, le dita in acqua, sembrava giocare con le onde. Non fu facile con un braccio solo salire le griselle che portavano sul ponte delle Erdi. Macari lo aiutò, ma senza traccia di amicizia nei gesti e nello sguardo. Quando furono a bordo, De Grammont e la schiava erano scesi da un pezzo nel quadrato. Nostromo, date gli ordini, disse l'ufficiale molto freddo. Voglio che saltiamo per primi. Rogerio allora rimirò un'ultima volta Campece, le sue mura a pezzi, le case distrutte, il tappeto di ceneri dove erano sorte le bicocche della gente di colore. Rimanevano in piedi solo i forti e le chiese. Si domandò se quell'abitato colpito a morte sarebbe mai risorto, come il governatore di Merida aveva promesso. Forse sì, col tempo lui comunque non ci sarebbe tornato mai più. Arma l'argano, gridò all'equipaggio, in bocca la catena, capona l'ancora, issa! E si rivolse ai gabbieri, sciogli le vele di maestra di mezzana, alza i velacci, c'è vento, usciamo, velocità media! Appena l'ancora fu strappata dal mare e pendente dal mascone di tribordo, il Leardi scricchiolò tutto e si avviò a largo. Rogerio si trovò a invidiare i marinai sui pennoni con i piedi poggiati sul sostegno precario di una fune. Quello dei gabbieri era un compito durissimo dalle insidie mortali, eppure dava soddisfazione quando il vento in faccia all'uomo di mare, le vele da lui sciolte cadevano e si gonfiavano. Il portoghese non avrebbe mai più provato nulla di simile. Invidiò in certa misura le sagome snelle che, eseguito il comando, scendevano agili, aggrappate al sartiame, passando di corda in corda come scimmie tra le liane di una foresta. Il Leardi, scricchiolante e inclinato a babordo, fu il primo a prendere il largo. Lo seguì il Neptune, le vele principali spiegate. La piccola goletta del capitano Brigou si sforzò a imitarli, ma fu presto oltrepassata da altri velieri diretti su rotte differenti. Da una nave all'altra ci si scambiava saluti, si lanciavano grida scherzose o amichevoli. Si sarebbero rivisti, certo, non c'era dubbio, magari non tutti e forse non alla Tortuga. il Mar dei Caraibi era comunque pieno di prede e nessun filibustiere avrebbe abbandonato quelle acque torride senza una quota congrua di bottino. Che ne pensasse il buon re Luigi? Francis Levert era al timone e Rogerio lo raggiunse. Bellissima navigazione quella del nostro brigantino, osservò, senza che voli. Levert grugnì. Ah sì, andrebbe tutto bene senza quel menagramo del corso. Quale corso? Wow, Petro Vinciguerra fa strani sogni, è quello che nella sua lingua è chiamato un mazzere, dice. E cosa vorrebbe dire? Ah, uno che sogna? Di andare a caccia di cinghiali ne posa sempre in sogno. Le carogne accanto alla riva di un fiume, gli animali si trasformano in uomini a lui noti, destinati a morire entro pochi giorni o poche settimane. E Vinciguerra ci ha sognati come cinghiali sgozzati, adagiati presso un rivo. Sogna la stessa cosa tutte le notti e la ripete in giro. La gente comincia a essere inquieta. Rogerio rabbrividì, ma non lo diede a vedere. Superstizioni. Come 17. Parlerò a quel corso perché la faccia finita, anzi lo farò parlare con Exkemeng, che è la razionalità in persona. È nella sua cabina? Ma chi, il chirurgo? No, il chirurgo si è imbarcato sul Nettio. Forse temeva che sulle ardici fosse troppa tensione. Verrà qui solo se la gotta facesse soffrire eccessivamente il nostro capitano De Grammont. E Rogerio ci rimase male. Ora, sulla nave che lo trasportava non aveva più amici. Macari si dimostrava poco cordiale e anche Levert era meno affidabile di prima, forse perché preso dalle sue paure. Gli restava il negro Bamba, ma definirlo un amico era eccessivo. Il vento era di poppa e stava aumentando di intensità, e ciò gli diede l'occasione per distrarsi. Braccia in croce! Urlò all'equipaggio senza attendere che il primo ufficiale gli trasmettesse un ordine scontato. Gli uomini corsero alle manovre. Il brigantino, con i pennoni quasi perpendicolari all'asse dello scafo, rallentò l'andatura e ciò permise alle navi di Lorenzio e di Brigo di raggiungerlo. Gli altri velieri invece erano ormai lontani, diretti a mete diverse. Il sole calava rapidamente. Entro un'ora e mezzo sarebbe stato necessario accendere i fanali di poppa. Nostromo, disse il timoniere, posso farti una domanda? Ma dimmi pure. A bordo delle Groaduli mi hai fatto uccidere le Ravensi. Rogerio si guardò attorno allarmato. Parla piano, idiota. E vedi che Macari era sul quadrato a una buona distanza. Ebbè, allora? I francesi vorranno vendicarsi. A Campeche eravamo una flotta, adesso siamo 3 navi soltanto. Tutti sanno che dopo aver colpito la costa messicana, prima di tornare alla Tortuga o in Giamaica, il cavaliere De Grammont fa sosta alla isla di Mujeres, è la base della filibusta più vicina allo Yucatan. Con questo che cosa vuoi dire? Beh, voglio dire che lo sapranno anche il governatore dei QC e il conte di Frontignan. Rogerio fece un sorriso forzato. Le tue fantasie eguagliano i sogni di Vinciguerra. Non ci pensare, occupati piuttosto di tenere la rotta. Un mozzo, che fungeva anche da valletto per gli ufficiali, sopraggiunse di corsa, salutò Rogerio. Signor, il cavaliere De Grammont vi chiede di cenare con lui. Tirò il fiato e aggiunse. Intende discutere della vostra ricompensa. Ci siamo, pensò Rogerio. E il cuore gli batteva forte, così forte. E con questo ultimo paragrafo capitolo del libro di Tortuga per oggi si chiude qui la diretta d'azione. Ricordiamo il prossimo appuntamento è per venerdì 21 marzo. La primavera, si inizia la primavera con una diretta d'azione, con la controinformazione e musica. Invece per la lettura di Tortuga, l'ultima lettura di Tortuga, si parla per lunedì prossimo. L'orario è quello 17-19. Ricordiamo prima della chiusura gli indirizzi utili per la reazione, reazione@chiocciolinaartistici.org per la mail. Lo ricordo, chi vuole può mandarci qualche consiglio su qualche libro da leggere entro la settimana prossima, così da valutare tra quella che abbiamo già scelto noi per le eventuali proposte, oppure per mandare notizie di informazioni, giornali online, tutto quello che potrà essere messo sulla pagina download di Radiazione. Il sito è radiazione.org, dove potete leggere la controinformazione aggiornata, ascoltare le dirette d'azione anche passate attraverso i podcast, e dove potete per l'appunto ascoltare sia la diretta d'azione il lunedì e venerdì dalle 17 attraverso le letture flash che trovate sulla sidebar, o scaricare il materiale che trovate nella pagina download. Vi lascio con un brano degli Yellow Black, l'appuntamento per venerdì ore 17, No Chance Control. Chi si offende è un fedente. Radio Azione. frequenze di azioni in diretta. Frequenze di azioni in diretta. Radio azione in diretta.